Non ti scordare di te. Vacci a vaccinarti, per favore. Vacci è imperativo presente del verbo star bene. Per prevenire influenza, polmoniti e altre malattie. Vacci a vaccinarti, per favore. Vacci a vaccinarti. Non ti scordare di te. Campagna di Happy Aging per la vaccinazione over 60. Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Nona puntata. Io ero stato molto malato per mesi qualche tempo prima e conoscevo la profondità di esserlo, questa profonda miseria nella miseria del genere umano operaio, specie quando uno è a letto già da 20 giorni o 30 e ci resta tra quattro mura noi e le cose di stoffa del letto, le cose di metallo della cucina e il legno delle seggiole, della tavola, dell'armadio. Non vi è più altro al mondo allora. E si guardano queste cose, i mobili, ma non si può farne nulla. Non si può fare un brodo di seggiola o di armadio. Pure è così grande l'armadio, vi sarebbe da mangiare per un mese. E si guardano queste cose come se fossero cose da mangiare. E forse è per questo che i bambini diventano pericolosi e rompono. Il più piccolo ha tutto il giorno una caviglia di seggiola in bocca e urla se la madre cerca di toglierla. Lei, la madre, ossia la moglie o insomma la ragazza, guarda i libri e ogni tanto ne prende anche uno. Si mette a leggerlo. Passa ore a sfogliare e leggere e il malato domanda: «Che leggi?» La donna non sa che cosa legge, ma un libro può essere qualunque cosa, un dizionario o una vecchia grammatica. Dice dunque il malato: «Proprio ora vuoi farti una cultura?» E la donna ripone il libro, ma poi ritorna a guardare la loro fila di libri, non di roba che si mangia, e di nuovo ne prende uno, e stavolta esce di casa, sta fuori un pezzo del pomeriggio. «Quanto lo hai venduto?» domanda poi il malato. La donna dice che lo ha venduto 1,50. E il malato non è contento, non capisce mai molto la situazione, ha la febbre imperterrita nel letto vecchio di giorni e di giorni al suo fianco. Pure vorrebbe qualcosa fuori da quel libro che fu suo quando era un ragazzo e si aspetta un po' di brodo e alla fine urla contro la moglie che invece ha comprato pane e formaggio per sé e per i bambini. «Sparvieri!» dice dei bambini. Essi a scuola hanno ogni giorno una scodella di minestra. Questa è buona iniziativa, dare ogni giorno una scodella di minestra nelle scuole ai figli della gente che muore di fame. Ma sembra che sia un aperitivo. Dopo quella cucchiaiata di minestra, i ragazzi tornano a casa coi denti fuori e non intendono ragioni, vogliono mangiare a tutti i costi e sono come animali feroci. Divorano le caviglie delle seggiole, vorrebbero divorare il padre e la madre. Se un giorno trovassero il malato solo, lo divorerebbero. Sul tavolo da notte, al capezzale del malato, ci sono le medicine. I ragazzi arrivano dalla scuola coi denti fuori, aguzzi, con la fame aguzzata, e si avvicinano al malato, vorrebbero mangiarselo, vengono a passi di lupo, ma c'è la madre in casa e i ragazzi lasciano stare il malato, si avventano sulle medicine. «Sparvieri!» il malato dice. E intanto l'uomo del gas ha tagliato il gas, l'uomo della luce ha tagliato la luce. Si passano le lunghe sere al buio nella stanza del malato. Solo l'acqua non è stata tagliata. L'uomo dell'acqua viene ogni 6 mesi, così non si corre pericolo immediato che arrivi e tagli l'acqua. E si beve acqua più che si può, cotta in ogni modo, o anche cruda. Ma c'è la padrona di casa che viene ogni giorno, vuol vedere il signor malato, vuol vederlo in faccia, e quando entra e lo vede gli dice: Bene, signor malato, troppo lusso non pagare la pigione e stare a letto. Mandatemi almeno vostra moglie a lavarmi i piatti. E la moglie va dalla padrona a lavare i piatti, lavare i pavimenti, lavare i panni, tutto in conto della pigione non pagata. E il malato resta solo in casa lunghe ore con l'imperterrita febbre al fianco che lo batte in faccia, lo batte, lo percuote, come approfittando della sua solitudine. Torna la moglie e il malato le chiede se non ha portato nulla dalla padrona di casa. Nulla, la moglie dice, non porta mai nulla. Ma perché almeno non vai a raccogliere verdura selvatica? Egli chiede. Dice la moglie, dove? Va per le strade e arriva al parco. C'è erba sui prati, c'è verde sugli alberi, è verdura e strappa erba, strappa fronde di abeti e pini, poi va anche ai giardini e strappa fiori e torna con verdura a casa, foglie e fiori nascosti nel petto. Tutto questo butta addosso al malato ed egli è un uomo tra i fiori. Ecco, la moglie dice, verdura. Io conoscevo questo e più di questo. Potevo comprendere la miseria di un malato e della sua gente attorno a lui, nel genere umano operaio. E non la conosce ogni uomo. Non può comprenderla ogni uomo. Ogni uomo è malato una volta nel mezzo della sua vita e conosce questo estraneo che è il male, dentro a lui, l'impotenza sua con questo estraneo. Può comprendere il proprio simile, ma forse non ogni uomo è uomo e non tutto il genere umano è genere umano. Questo è un dubbio che viene nella pioggia quando uno ha le scarpe rotte, acqua nelle scarpe rotte e non più nessuno in particolare che gli occupi il cuore, non più vita sua in particolare, nulla più di fatto e nulla da fare, nulla neanche da temere, nulla più da perdere e vede al di là di se stesso i massacri del mondo. Un uomo ride e un altro uomo piange. Tutti e due sono uomini. Anche quello che ride è stato malato. È malato. Eppure egli ride perché l'altro piange. Egli può massacrare, perseguitare. È uno che nella non speranza lo vede che ride sui suoi giornali e manifesti di giornali. Non va con lui che ride, ma semmai piange nella quiete con l'altro che piange. Non ogni uomo è uomo, allora. Uno perseguita e uno è perseguitato. E genere umano non è tutto il genere umano, ma quello soltanto del perseguitato. Uccidete un uomo, egli sarà più uomo. E così è più uomo un malato, un affamato. È più genere umano il genere umano dei morti di fame. Chiesi a mia madre, tu che ne pensi? Di che? Mia madre disse. E io, di tutti questi ai quali fai l'iniezione. E mia madre, penso che forse non potranno pagarmi. Va bene, dissi io. E ogni giorno vai lo stesso da loro, fai loro la iniezione e speri che invece possano pagarti in qualche modo. Ma cosa pensi di loro? Cosa pensi che sono? Io non spero, disse mia madre. Io so che qualcuno può pagarmi e qualcuno no. Io non spero. Pure vai da tutti, dissi io. Ma cosa pensi di loro? Oh, mia madre esclamò. Se vado per uno, posso andare anche per un altro, disse. Non mi costa nulla. Ma cosa pensi di loro? Cosa pensi che sono? Io dissi. Mia madre si fermò in mezzo alla strada dove eravamo e mi rivolse un'occhiata leggermente strabica. Sorrise anche e disse: che strane domande fai? Cosa devo pensare che sono? Sono povera gente con un po' di tisi o con un po' di malaria? Io scossi il capo. Facevo delle strane domande. Mia madre poteva vedere questo, eppure non mi dava delle strane risposte. E io questo volevo, strane risposte. Chiesi, hai mai visto un cinese? Certo, mia madre disse, ne ho visti due o tre. Passano per vendere le collane. Bene, dissi io, quando hai davanti un cinese e lo guardi e vedi nel freddo che non ha cappotto e ha il vestito stracciato e le scarpe rotte, che cosa pensi di lui? Ma nulla di speciale, mia madre rispose. Vedo molti altri qui da noi che non hanno cappotto per il freddo e hanno il vestito stracciato e le scarpe rotte. Bene, dissi io. Ma lui è un cinese. Non conosce la nostra lingua e non può parlare con nessuno. Non può ridere mai. Viaggia in mezzo a noi con le sue collane e cravatte, con le sue cinture. E non ha pane, non ha soldi e non vende mai nulla. Non ha speranza. Che cosa pensi tu di lui quando lo vedi che è così un povero cinese senza speranza? Ah, mia madre rispose. Molti altri vedo che sono così qui da noi. Poveri siciliani senza speranza. Lo so, dissi io. Ma lui è un cinese. Ha la faccia gialla, ha gli occhi obliqui, il naso schiacciato, gli zigomi sporgenti e forse fa puzza. Più di tutti gli altri, egli è senza speranza. Non può avere nulla. Che cosa pensi tu di lui? Oh, rispose mia madre. Molti altri che non sono poveri cinesi hanno la faccia gialla, il naso schiacciato e forse fanno puzza. Non sono poveri cinesi, sono poveri siciliani eppure non possono avere nulla. Ma vedi, dissi io. Egli è un povero cinese che si trova in Sicilia, non in Cina, e non può nemmeno parlare del bel tempo con una donna. Un povero siciliano, invece, può. Perché un povero cinese non può? Chiese mia madre. Bene, dissi io. Immagino che una donna non darebbe nulla a un povero viandante che fosse un cinese invece di un siciliano. Mia madre si accigliò. Non saprei, disse. Vedi? Io esclamai. Un povero cinese è più povero di tutti gli altri. Cosa pensi tu di lui? Mia madre era stizzita. Al diavolo il cinese, disse. E io esclamai. Vedi? Egli è più povero di tutti i poveri e tu lo mandi al diavolo. E quando lo hai mandato al diavolo e lo pensi così povero nel mondo, senza speranza e mandato al diavolo, non ti sembra che sia più uomo, più genere umano di tutti? Mia madre mi guardò sempre stizzita. Il cinese, disse. Il cinese, dissi io. O anche il povero siciliano che è malato in un letto come questi a cui fai l'iniezione. Non è più uomo e più genere umano. Lui. Lui, disse mia madre. Lui, dissi io. E mia madre chiese, più di chi? Risposi io, più degli altri. Lui che è malato, soffre. Soffre, esclamò mia madre. È la malattia. Soltanto, io dissi. Togli la malattia e tutto è passato, disse mia madre. Non è nulla, è la malattia. Allora io chiesi, e quando ha fame e soffre, che cos'è? Bene, è la fame, mia madre rispose. Soltanto, io dissi. Come no? Disse mia madre. Dagli da mangiare e tutto è passato, è la fame. Io scossi il capo. Non potevo avere strane risposte da mia madre. Eppur chiesi ancora, e il cinese? Mia madre, ora, non mi diede risposta, né strana né non strana, e si strinse nelle spalle. Essa aveva ragione, naturalmente. Togliete la malattia al malato e non vi sarà dolore. Date da mangiare all'affamato e non vi sarà dolore. Ma l'uomo, nella malattia, che cos'è? E che cosa è nella fame? Non è la fame tutto il dolore del mondo diventato fame? Non è l'uomo nella fame più uomo? Non è più genere umano? E il cinese? Ora non si scendeva più lungo il monte di case. Si risaliva per un altro fianco, dal fondo del vallone. Si andava verso il sole e la musica di zampogne come nuvola o neve. In alto. «Sei mai stata malata, tu?» chiese mia madre. «Una volta», mia madre rispose. «Che fu?» chiesi io. «Non so», mia madre rispose. «Non volle il dottore e non so che fu. Guarii da sola». «Guaristi da sola?» dissi io. «Sempre speciale, tu». «Speciale?» esclamò mia madre. «Come speciale?» «Dico che forse», io risposi, «pensavi di essere diversa dagli altri. Non è così». «Io non pensavo niente», mia madre disse. E io chiesi, «Fu mai malato il babbo?» «Altro che», mia madre rispose. Era malato ogni momento. Aveva la malaria. Ecco, dissi io. Il babbo voleva il dottore. E mia madre, altro che. Era come un bambino. Gli veniva il freddo, la febbre alta. Si sapeva che era la malaria. Eppure voleva il dottore lo stesso. E io, il babbo era un uomo umile. E mia madre aveva paura. E io, era un uomo umile. Ero un po' stanco. La strada era in salita, con un muricciolo da una parte in quel punto. E mi appoggiai al muricciolo. Avevo viaggiato dalla mia quiete nella non speranza. Ed ero in viaggio ancora. E il viaggio era anche conversazione. Era presente, passato, memoria e fantasia, non vita per me, eppur movimento. E mi appoggiai al muricciolo. Pensai a mio padre stanco, non Macbeth, non re, coi suoi occhi azzurri. Malato, egli era carico di tutto il dolore del mondo e accettava di non essere Macbeth. Chiedeva al dottore, voleva guarire. Era come un bambino. Un uomo è più uomo quando è come un bambino. È umile, ammette la propria miseria e nella propria miseria grida. È più genere umano. Era un uomo umile in fondo, dissi di nuovo. Guardai mia madre e ritirai la mano dal muricciolo. E il nonno non fu mai malato, chiesi. Fu molto malato, mia madre rispose. Come? Io esclamai. Anche lui. Perché no? Disse mia madre. Fu verso i 40 anni. Io ne avevo 7 o 8. Immagino che non volle il dottore, dissi io. No, disse mia madre. Guarì da solo. Venne una volta il dottore dei poveri, ma non tornò più. Lui non lo voleva. E io, per l'appunto, pensava di essere speciale. E mia madre, che storie! Pensava di non essere malato. Ecco, dissi io. Pensava di essere speciale, non potersi ammalare uno come lui. Era un uomo fiero. Mia madre eresse la schiena e fu fiera. Certo, era un uomo fiero, disse. E che fu? Io le chiesi. Un po' di tisi o un po' di malaria? Ma no, esclamò mia madre. Fu molto malato, disse. Morì e resuscitò. Non più appoggiandomi al muricciolo, ma al braccio di mia madre, io pensai agli uomini, me stesso e il babbo, il nonno, uomini umili e uomini fieri. E pensai all'umanità e alla fierezza nella miseria. E fui fiero di essere figlio di uomo. Qualcuno, certo, non era uomo. E non tutto il genere umano era genere umano. Ma non perché umile un uomo non era uomo. E nemmeno perché fiero. Un uomo poteva gridare come un bambino nella miseria e essere più uomo. E poteva negare la propria miseria, essere fiero, ed essere lo stesso più uomo. Un uomo fiero è un gran lombardo e pensa ad altri doveri quando è uomo. Per questo egli è più uomo. E per questo forse la sua malattia è morte e resurrezione. Fu una polmonite, raccontò mia madre, o qualcosa d'altro genere, e non volle il dottore. Disse che non era malato, mandò via il dottore dei poveri. Il pane è molto caro, gli disse, per i poveri. Costa ogni boccone, una giornata di lavoro. E mandò via il dottore. Noi dobbiamo lavorare, gli disse. E continuò a lavorare le sue 14 ore al giorno. Finché una notte morì e resuscitò. Era grande il nonno, dissi io. Era grande, disse mia madre. Ormai su per il viottolo eravamo usciti dall'ombra del vallone. Eravamo arrivati nel sole e mia madre disse: «Ma come ti sembra che le faccio le iniezioni? Bene, no?» «Bene», dissi io. «Vedi?» disse mia madre, ed era trionfante, era soddisfatta. «Vedi?» disse. «Posso guadagnarmi la vita da me!» Eravamo arrivati lontani dal rumore del torrente. Eravamo nel sole, di faccia al sole che tra poco sarebbe tramontato. E potevamo sentire distendersi sulla cima del paese la neve o nuvola della musica di Zampogne. «Ora andiamo dalla vedova», disse mia madre. «È una che ha qualche soldo, questa. Paga contanti».